Die braunen Pupillen, die Lieder, was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann dein Feind sein, es kann dein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue. Sono le ore 18 e un minuto di giovedì 13 luglio 2006 e mi trovo al caffè letterario di via Ostiense, che è un locale molto trendy della capitale, musica lounge, musica chill out. È uno di questi posti dove la sera è impossibile incontrare quei personaggi che sembrano usciti dai film di Nanni Moretti, quelli, per intenderci, che hanno difficoltà a spiegarti che lavoro fanno e come si guadagnano da vivere. Per questa seconda puntata di Due Occhi da Straniero sono in compagnia di Jorge Gutiérrez Chávez, nazionalità messicana, giornalista, scrittore, politologo, docente di diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza della Universidad Autonoma di Città del Messico e commentatore del periodico internazionale corrispondente a Roma del quotidiano Milenio e di Radio Centro. E Jorge, intanto grazie per la tua disponibilità. Visto che si parla di Italia, è difficile non cominciare con una domanda sui campionati del mondo di calcio. Abbiamo visto, parallelamente al cammino della nostra nazionale fino alla conquista della Coppa, in questi ultimi giorni si è assistito un po' a un crescere della febbre mediatica internazionale intorno all'Italia, intorno agli italiani, mettendo per un attimo da parte la pizza e il mandolino e mettendo anche da parte gli insulti della stampa scandalistica, che solo per noi italiani, cioè solo noi italiani prendiamo sul serio questi insulti. In realtà però anche nei giornali stranieri più seri sorprende che c'è un alto livello di identificazione tra la nostra squadra e l'immagine del nostro popolo. E questo avviene sia nel bene, quando si cita il coraggio, lo spirito di sacrificio, la capacità di arrivare fino in fondo, sia nel male, quando si dice che siamo dei provocatori, ricorriamo a dei trucchi, a delle bassezze, eccetera, eccetera. Ora, questo chiaramente è accaduto anche per la Francia nel 98, per il Brasile nel 94, però non a questo livello di identificazione speculare tra squadra e popolo. Secondo te perché? Ma prima di tutto anch'io ti saluto e saluto anche al tuo auditorio. E riguardo a questa domanda, io direi che il calcio in questo momento è un fenomeno così importante, grande e con tale dimensione e influenza mediatica, che è stato il motivo per cui l'Italia è stata identificata con questa squadra che, anche se non ha convinto veramente ai veri tifosi del mondo, hanno riconosciuto che era una squadra molto forte, che identificava perfettamente la maniera di essere del popolo italiano, una squadra forte però con un grande coraggio, con una grande capacità di reagire anche alle avversità, alle critiche negative, alle critiche tante volte un po' fuori posto che ha fatto soprattutto, credo, la stampa tedesca, che nessuno è stato d'accordo, che, come tu dicevi, sono cose che uno deve sorvolare. Nel Messico, devo dirlo, la squadra azzurra o il gioco ha avuto un effetto enorme, enorme nel Messico, perché anche, si devo dire che non piace molto il calcio italiano, perché è molto difensivo. Tuttavia, tutti nel Messico hanno riconosciuto che era la squadra che doveva vincere il campionato, e questo devo dire anche che è un merito che attribuiscono a un atteggiamento degli italiani, a una forma di essere degli italiani, che è stata sottolineata con questa grande manifestazione che è stato il Circo Massimo, che tra l'altro a me è toccato fare la cronaca diretta per il Messico, e così ti puoi immaginare l'importanza che hanno dato al trionfo delle squadre azzurre anche in un paese così lontano come il Messico, dove come sai pure non c'è una comunità italiana fortissima come può essere in Brasile e Argentina. Tu vivi in Italia da 18 anni, sono successe molte cose in questi 18 anni in Italia, nell'evoluzione o nell'involuzione politica, economica e sociale. Come è cambiata secondo te l'Italia? Come sono cambiati gli italiani in questi 18 anni? Ma sono cambiati molto dal mio punto di vista. Io quando sono arrivato c'era un'altra Italia. Io ti dico per esempio, vado un po' indietro, io sono arrivato in Italia per studiare, per fare un postgrado in giurisprudenza, perché io la mia professione ho studiato giurisprudenza nel Messico. Qui stranieri eravamo pochissimi. Eravamo pochissimi. Io sono tornato nel Messico nell'84 e ritornato nell'88 già come giornalista, e questo era un altro mondo. Io mi ricordo tutte le macchine vecchie, scassate, tutti i palazzi che cadevano a pezzi. E sono tornato e la gente sembrava che questo mondo era cambiato in 4 anni. In 4 anni è cambiato completamente, però era cambiata purtroppo anche la mentalità della gente. Tutta questa, l'egoismo, l'individualismo, era appreso la posizione della solidarietà, di tutti questi valori importanti che credo che non li ha persi il popolo italiano, però che si vedono molto meno. Questo veramente è la cosa un po' diciamo, quella che mi ha colpito di più. No? Ecco, ma possiamo dire che è stato un po' ristretto l'orizzonte comunitario degli italiani, che adesso diciamo utilizzano ancora queste categorie, la solidarietà, alcuni valori tradizionali, per esempio cattolici, però nell'ambito familiare, mentre prima il senso di comunità era un po' più esteso rispetto al recinto della casa, della famiglia. Certamente, certamente. Io per esempio su questo della solidarietà, io stavo qua in un terremoto in Irpinia, credo nell'80, sì. Io mi ricordo la quantità di macchine che sono partite, di gente, non la questa istituzione adesso pubblica, no, la gente che partiva, però massivamente aiutare la gente. Ma era una cosa che io sono rimasto colpito di fenomeni di questo genere, che purtroppo non si vedono adesso, perché una società quando comincia a essere più ricca comincia a avere più per i suoi interessi che non per gli interessi di altre persone. Credo, Dio. Guarda, io soltanto ti dico una cosa che sempre dico, ripeto molto agli italiani. Tante volte Italia si colloca come un paese sviluppato, dei leader del mondo, però ci sono delle memorie del sottosviluppo italiano così presente nella società italiana che veramente sarebbe importante non perdere di vista tutte queste. A cominciare dall'analfabetismo, che insomma rispetto agli altri paesi europei è un dato ancora abbastanza preoccupante. Certo, questo e tante altre cose, nella sanità, nel rispetto delle leggi, eccetera. Però non voglio qua criticare, perché io amo questo paese, il mio secondo paese, già ormai mia moglie è italiana. Hai citato il terremoto dell'80, non avevo previsto di chiedertelo, però mi viene in mente il terremoto di Città del Messico dell'85, se non sbaglio. Però anche lì io ricordo che il Messico si mobilitò con una prova di solidarietà straordinaria, tra l'altro a un anno dall'organizzazione di un mondiale. Sai che nel Messico è successo più o meno lo stesso, in quel terremoto e anche per altre occasioni è stato una mobilitazione veramente impressionante e solidarietà. Purtroppo non è più così. Pian piano si sono persi anche questi valori nel Messico, non perché si è arricchito, sino soprattutto perché lì si è impoverita la società, e adesso è la divisione così grande tra ricchi e poveri che veramente esigere alla gente povera a avere questo forma di solidarietà quasi è una cosa che non mi sembra neanche giusta. Ecco, rimaniamo in Messico. La vittoria del conservatore Felipe Calderón alle recenti presidenziali è molto contestata dal candidato rivale, l'ex sindaco di Città del Messico, López Obrador, che ha anche portato 200.000 persone in piazza per reclamare un riconteggio manuale delle schede. Si parla infatti di frode informatica, se non sbaglio. Ecco, io vorrei provare a confrontare analogie e differenze tra questa situazione con la contestazione del risultato delle recenti elezioni politiche in Italia, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui ha reagito l'opinione pubblica e la stampa locale. Diciamo che c'è una grande somiglianza a queste due in genere, no? In particolare sono due casi completamente diversi. E tu devi ricordare, come tanti sanno, che nel Messico fino a poco tempo fa la legalità dell'elezione era abbastanza dubbia, no? E in questo momento credo che non sia stato una frode importante elettorale, però questo è il problema. Può darsi, con questo scarto, che sono 250.000 voti, credo, che in un paese con 100 milioni di abitanti, con 50, credo 60 di votanti, è possibile che perdere una urna elettorale o due possa cambiare radicalmente, o un conteggio fatto male possa cambiare l'indirizzo di queste elezioni. In Italia è un'altra cosa, questo credo che in Italia non c'era nessun dubbio di un furto, di una cosa anomala, soltanto che lo scarto era così minimo che Berlusconi non voleva accettare il risultato, che alla fine nemmeno mai lo ha accettato, però credo che nessuno si preoccupa adesso se lo accetta o non lo accetta. No, è diventato anche un suo argomento all'interno degli equilibri della Casa della Libertà, cioè al di là della sua reale volontà di sovvertire il risultato, è comunque un elemento della sua politica. Soltanto vorrei aggiungere una cosa, che Berlusconi aveva un interesse molto concreto, e far vedere che veramente la vittoria di Prodi, della sinistra, non era tale, no? Che il paese era diviso in due grandi schieramenti e che non c'era un vero vincitore. Nel Messico è diverso. Nel Messico è diverso perché quello che si sta giocando sono due posizioni completamente diverse, due politiche che vedono la realtà e il futuro del Messico in due forme diverse, che tuttavia la proposta che ha fatto Calderón a López Obrador di formare una grande coalizione con elementi di tutti e due gli schieramenti politici è una novità tremenda nel Messico, e secondo me potrebbe essere rivoluzionaria nel Messico in questo momento, però credo che non ci sarà una cosa del genere. Ecco, tu recentemente hai scritto per Editori Riuniti un libro su José Rodríguez Zapatero, dall'eloquente titolo Zapatero, il riformista che fa quello che dice. Ora, questo è un premier che a poco più di 40 anni è già un'icona della sinistra italiana, in chiave prima antipopulista, c'è stato il film di Sabina Guzzanti, poi anche laicista, quando non apertamente anticlericale. Perché la Spagna è riuscita a partorire uno Zapatero, cioè uno che fa quello che dice, adesso al di là del giudizio sulle sue idee, però fa quello che dice, e l'Italia invece per ora non sembra in grado di esprimere un leader in grado di mantenere le proprie promesse? Io credo prima di tutto sull'Italia grava un'ipoteca pesantissima, che è la presenza della Santa Sede in territorio italiano. Questo è un dato di fatto che nessuno può ignorare. E per quanto sembri un fatto nuovo, guarda che la Spagna, molto prima del franchismo, aveva consolidato una sinistra, una comunità, una forze politiche laiche molto forti, che non sono morti con la guerra civile spagnola, che stanno lì, che stavano lì e che pian piano sono emersi con la crisi stessa della Chiesa, la credibilità che ha avuto la Chiesa soprattutto in Spagna, uno dei paesi dove la Chiesa ha perso più dei suoi membri che in un'altra parte del mondo, e ha dato sì la possibilità che un nuovo politico abbia avuto la possibilità di arrivare al governo e presentarsi sempre come un laico che voleva fare non soltanto o fare promesse, sino far effettive queste promesse. E una di queste promesse è stata le scuole, è stato il matrimonio omosessuale, è stato lo statuto di Catalogna, è stato il dialogo con Letta. E tutte queste cose, sia che uno sia d'accordo o no, le ha fatte. E credo che questo è il grande merito di questo spagnolo. E credo sì che anche in Italia non venga fuori un personaggio così, perché tutte le forze politiche, tranne tre o quattro della sinistra radicale, sono o hanno una grande paura di confrontarsi con la Chiesa e soprattutto con l'elettorato della Chiesa, con l'elettorato cattolico. Da lì che nessuna o tutte le leggi, le iniziative, le riforme quasi devono passare prima attraverso il Vaticano e dopo tornare al dibattito politico laico. Senti, però c'è una di queste riforme che sembra abbastanza a portata di mano. Esiste già una proposta di legge, e sto parlando della riforma in stile zapaterista della radio-televisione pubblica, che dovrebbe essere sottratta al controllo dei partiti. Secondo te questa ce la facciamo a farla? Non credo. Neanche in Spagna è stata ancora approvata questa legge. È molto difficile. Poi c'è questa commissione di saggi che non si capisce come venga nominata, cioè come fa un saggio ad autoproclamarsi letteralmente al di fuori della politica, del controllo dei partiti. Sì, ma questi saggi in Spagna tu ti riferisci? No, ma loro hanno scelto a diverse persone di un alto prestigio intellettuale, morale, eccetera. Loro hanno presentato un programma molto ampio, ricco di suggerimenti sulla indipendenza e libertà della radio-televisione spagnola, però c'è un grande problema, che il debito della radio è altissimo, e loro dicevano che doveva caricarsi allo Stato e dopo doveva ridursi la pubblicità, una serie di cose che sembrano giuste, soltanto che i soldi che entrano nella pubblicità sono fondamentali per sopravvivere già in questo momento qualsiasi pubblico, privato, qualsiasi mezzo di informazione. E ti dicevo, in Italia mi sembra difficile perché il potere è troppo vincolato ai mezzi, ai media. È difficile pensare in Italia, un paese tradizionalmente che ha un controllo quasi assoluto, ti ricordi della ripartizione che si faceva prima, o il Rai 1, 2, 3? La lottizzazione che si chiama, perché sanno perfettamente il peso specifico che ha la televisione e la radio per la politica. Per quello penso che sì, io credo che ci sarà una maniera con questa legge di fare un po' più trasparente queste cose, però da lì a che i media si stacchino definitivamente del potere politico lo vedo molto difficile. Ecco, proprio per il quotidiano messicano Milenio, hai seguito il caso del rapimento di Giuliana Sgrena e anche tutte le polemiche intorno alla morte di Calipari, che hanno mostrato ancora una volta l'ambiguità del rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti, un rapporto che viene definito anche di amicizia obbligata, una sorta di abbraccio obbligatorio. Ora, i fatti recenti dimostrano che questo pesante condizionamento non sia cambiato granché, nemmeno con il governo Prodi. Ecco, il Messico di Fox prima, di Calderon poi, sembra però anche lui imprigionato in questo abbraccio, che condiziona molto la gestione delle grandi controversie. Adesso c'è stata quella sul controllo della frontiera tra Messico e Stati Uniti, il controllo dell'immigrazione. Ora, credi che se per caso un governo della sinistra in Messico riuscisse, adesso magari non sarà questa la volta buona, a conquistare il potere, questo rapporto potrebbe cambiare in qualche modo o rimarrebbe pressoché uguale come da noi? Ma prima io ti rispondo, prima di rispondere a questa, una frase che ha detto un dittatore messicano, Porfirio Diaz, nel 1909-8, no? Diceva: siamo così lontani da Dio e così vicini agli Stati Uniti. Per dire il peso specifico che ha la presenza degli Stati Uniti, di essere vicini agli Stati Uniti. Allora, l'altra domanda direttamente. Io credo che anche se viene, esce vincente una formazione di sinistra, il rapporto del Messico con gli Stati Uniti continuerà a essere molto forte. La unica differenza sarà forse già non di dipendenza, perché con questo presidente Fox il rapporto Messico e gli Stati Uniti sempre hanno avuto un rapporto di amore e odio. Con Fox questo rapporto di amore e odio si è trasformato in un rapporto di subordinazione che ci ha fatto staccarci dell'America Latina. Non adesso, non soltanto adesso che tutti sono della sinistra, no? Messico per tanti anni è stato il leader dell'America Latina perché non seguiva le direttrici degli Stati Uniti, era un costante confronto con il governo di Washington. Adesso che con questo governo ha aperto le porte di tutto, è il momento in cui il Messico vede i suoi diritti alla sua gente calpestati dappertutto, al punto che vogliono fare questo muro e vogliono chiamare la Guardia Nazionale, sì, anche. Vogliono chiamare la Guardia Nazionale, dichiarare delinquente, criminali agli immigranti, clandestini, cioè cose che prima, quando eravamo avversari, non si sentivano. Invece adesso che è venuto questo governo conservatore abbiamo avuto tutte queste cose. E uno dei problemi per me importanti o fondamentali di questo nuovo atteggiamento del governo messicano è quello che ti dicevo prima, che sembra che la frontiera degli Stati Uniti si sia allungata fino al Chiapas e che il Messico si è staccato delle sue origini naturali. Questo è il problema. Però il fratello o il cugino povero minore degli Stati Uniti e del Canada, perché tutte e due abbiamo questa grande alleanza commerciale, economica, di cui il Messico ha avuto sì tanti benefici, però credo che ha peggiorato profondamente la situazione della gente nel Messico. Ecco, in qualche modo hai già introdotto l'argomento, che è quello di come, diciamo, di tutti i paesi latinoamericani, di come vengono visti, descritti dalla stampa italiana. Di questo vorrei parlarti, perché io ho la sensazione che la nostra stampa, forse distratta dai molti avvenimenti degli ultimi mesi su altri fronti, non sembra essere molto interessata invece a quelle che sono le grandi novità proposte dalla politica dei paesi latinoamericani, soprattutto sudamericani. Lula, Morales, l'attivismo di Chavez, la quasi vittoria di Obrador che stava per vincere. Sono tutti questi fenomeni che vengono descritti in modo abbastanza folcloristico. Di Morales i nostri giornali dicono solo che si presenta agli incontri ufficiali con l'abito tradizionale della sua etnia. Lula viene definito frettolosamente comunista, per giunta corrotto. Di Chavez si parla solo come di un dittatore populista che scambia petrolio con i medici cubani. Di Kirchner si parla poco, forse perché è il personaggio più difficile da trasformare in una macchietta. Però se proviamo a indagare scopriamo che Lula non è affatto comunista, ma è un ex sindacalista molto legato alla Chiesa, che Chavez fa molti affari con personaggi come il colombiano Uribe, che ideologicamente gli è lontanissimo, che di Morales la nostra stampa parla male semplicemente perché ha restituito al suo popolo il gas che per anni l'ENI, per esempio, e altre grandi compagnie internazionali hanno acquistato a un prezzo oscenamente basso. Di queste cose non si parla, ne parla giusto Gianni Minà in qualche rara apparizione. E nessuno lo sa. Perché secondo te c'è questa visione riduttiva di quello che sta accadendo in questi paesi? Non si cerca di andare in profondità? Guarda, che la stampa italiana è sempre stata molto superficiale al trattare i problemi dell'America Latina. Io ti dico, al punto superficiale, per esempio, che considerano il Sud America dal Messico fino alla Patagonia, cioè il Messico, per quanto io ho studiato e continuo a vedere, è Nord America. Qua o si prende America non come un continente ma come un paese, E allora si prende l'America come un paese, tutto quello che sta al sud dell'America, paese, è il Sud America. Questo è il primo, diciamo, la prima critica che sempre io l'ho fatta presente tante volte, però evidentemente non interessa a nessuno, perché qui c'è il sogno americano, no? E questo e secondo, il problema è che l'Italia non ha colto la dimensione del cambiamento che sta operando soprattutto il Sud America in questo momento. Potenzialmente l'America del Sud è una regione fortissima, ricchissima, con una grande possibilità di creare un fronte compatto sopra, che potrà crescere soprattutto se viene preso in considerazione dall'Unione Europea, non dagli Stati Uniti, con cui hanno dei problemi ideologici, economici, eccetera. Un'altra cosa, che in Italia si mette in un, come dice, in un calderone tutti, come se tutti fossero uguali. E io dico, che cosa ha a che vedere Lula con Chavez, Kirchner con Evo Morales? Che cosa hanno che... Non hanno, politicamente ci sono, sono persone di sinistra, però la sinistra non è una. Gli interessi e i problemi dei paesi sono diversi. Il Brasile è una potenza veramente economica e anche tecnologicamente è una potenza. L'Argentina in certi aspetti anche è una potenza, che ha avuto questi regimi populisti, eccetera. È vero, è crollata, però si sta alzando con una forza impressionante. Chavez, tutti, viene qualificato come un populista, e non credo che sia una definizione sbagliata, però un po' generica. È un tizio che ha una visione unificante, unificatora del Sud America, ovviamente guardando il Venezuela come il capo di questa nuova e emergente Sud America. Che riesca o no, questo non lo so, però che sta facendo tutto il possibile e con le grandi risorse che gli dà il petrolio, questo è vero. E peccato, non è soltanto una cosa, perché una delle cose che tutto questo ragionamento superficiale e generico fa sì che l'Italia veda con poco interesse l'America Latina, che non riesca a capire che è un mercato importante, che è un mercato donde può estendersi e che ovviamente ci sono dei rischi, e forse per questo sta puntando più per i paesi dell'est che per l'America Latina. E io ti dico una cosa, che la Francia, la Spagna soprattutto e l'Inghilterra stanno muovendosi con una grande forza e con una grande determinazione in America Latina. Purtroppo l'Italia è latitante. Ecco, per chiudere, c'è una cosa che non mi è mai andata giù. Quando in Italia si vuole parlare di un salto di qualità nel senso dell'ulteriore degrado, progressivo degrado delle nostre istituzioni, spesso si parla di una deriva latinoamericana o più spesso sudamericana. Ecco, io sono convinto che dopo aver assistito all'involuzione della nostra politica negli ultimi anni, siano semmai i latinoamericani ad avere il diritto di parlare di deriva italiana. Chiaramente è una provocazione, è forse una esagerazione, però ogni tanto si sentono grandi personaggi della cultura ispanica, come, che so, García Márquez, che protestano perché dicono: ma perché parlare di derive latinoamericane? Non c'è nessuna lezione che dobbiamo imparare da voi. Guarda, da quando sono arrivato in Italia, sempre si mette come esempio: ah, non siamo il paese delle banane, credo che si dice, la Repubblica delle Banane, o si metteva, non siamo la Bolivia, non... Guarda, questo lo sento da 25 anni. Che cosa voglio dire con questo? Che forse non è che non si sentono la Repubblica delle Banane, che non si sentono la Bolivia, il Messico, ma che qualche cosa qua non va, che soltanto che la gente non vuol riconoscere niente. È facile confrontarsi con delle democrazie giovani, immature, incapaci di esprimersi veramente, perché se vanno fuori dalla regione dell'America Latina e vanno veramente ai paesi dove la democrazia, l'istituzione funzionano, vedrai che anche di là parlano dell'Italia come l'Italia parla dell'America Latina. Che cosa voglio dire? Che ognuno si prende con quello che può. Perché non dire, senti, non siamo all'altura degli Stati Uniti, della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, dove tutte queste istituzioni, la democrazia funziona in un'altra maniera, la politica e tutto il gioco che esiste in un paese è completamente diverso. No, non siamo un paese, una repubblica delle banane. Ma forse ci siete e non vi siete resi conto. E questo è parte anche di questa forma spregiativa, credo che si dice, di trattare paesi di cui non si conosce nelle storie, né si conosce gli sviluppi recenti e nemmeno i grandi sforzi che stanno facendo per uscire da un punto di crisi che ha comportato soprattutto in quest'ultimo periodo la globalizzazione e prima, molto prima, le disuguaglianze che sono la colonna vertebrale della nostra regione. Questo è veramente triste, per me molto triste vedere che un paese come l'Italia, molto affabile, che l'unica cosa che veramente sembra interessarle è il folclorismo, il colore, la spiaggia, le battute così veloci, però che non riesce a fare un discorso serio su problemi seri e su paesi che, ripeto, fanno grandi sforzi per crescere, perché l'Italia dimentica, e questo non l'Italia, sino il mondo più sviluppato, dimentica che paesi come il Messico, tutta l'America Latina, sono giovanissimi a livello di sviluppo. Cioè, quando siamo stati, come dicono, scoperti, quando è stato questo incontro tra la cultura indigena messicana e la cultura europea, qua era già uno sviluppo, se non completo, molto molto sviluppato. In 500 anni abbiamo fatto molto, tanto manca per fare, però io spero che pian piano, con questi cambiamenti, venga fuori una società più degna, più ugualitarie e soprattutto che si recuperi la dignità della gente e dei nostri paesi. Die braune Pupillen, die Lieder, was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Tutte le interviste di Due Occhi da Straniero sono pubblicate con licenza Creative Commons e sono scaricabili dal sito dueocchidastraniero.wordpress.com. La musica della sigla, per gentile concessione dell'etichetta Bella Musica Edizione, è Zwei Fremde Augen, cantata da Salome Kammer e tratta dal film Heimat 2, Cronaca di una giovinezza di Edgar Reitz. Per i vostri commenti e suggerimenti potete scrivere a antoniocontent@yahoo.it. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braune Pupillen, die Lieder, was war das von der großen Menschheit ein Stück vorbei verweht, nie wieder.